Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Stato d'assedio di Mahmoud Darwish, lettura di Lino Musella. Qui, su pendii di colline davanti al tramonto, o alla bocca del tempo, accanto a giardini di ombre spezzate, facciamo come fanno i prigionieri, facciamo come fanno i disoccupati, coltiviamo la speranza. Un paese si prepara all'alba, intontiti a spiare l'ora della vittoria, senza notte nella notte illuminata di bombe. I nemici vegliano e accendono le luci per noi fino al buio dei sotterranei. Qui, dopo i versi di Giobbe, non aspettiamo nessuno. Qui, nessun io. Qui, Adamo ricorda la sua argilla. Quest'assedio si prolungherà fino a quando non avremo insegnato ai nemici passi della nostra poesia antica. Il cielo è di piombo al mattino, rosso nelle notti. I cuori invece restano neutrali come rose di siepe. Nell'assedio la vita è il tempo. Trascorre ricordando l'inizio e scordando la fine. La vita intera, la vita mancante, ospita stelle vicine, senza tempo, nubi migranti, senza meta, e la vita qui si chiede come riportarla in vita. In punto di morte dice: non posso più perdere, sono libero, a un passo dalla libertà. Il mio futuro è nella mia mano. Presto entrerò nella mia vita, nato libero dai padri, e mi darò un nome, in lettere di lapislazzuli. Qui, sulle alture del fumo, sui gradini di casa, non c'è tempo per il tempo. Facciamo come chi si innalza a Dio. Dimentichiamo il dolore. Il dolore è una madre che non stende il bucato. Al mattino distende la bandiera. Qui nulla riecheggia Omero. I miti bussano alla porta quando vogliamo e nulla riecheggia Omero. Qui un comandante scava alla ricerca di uno stato assopito sotto le rovine della città di Troia che verrà. I soldati misurano la distanza tra l'esistenza e il nulla con la lente del carro armato. Misuriamo la distanza tra i nostri corpi e il proiettile col sesto senso. Voi che state lì sulla soglia, entrate, bevete il caffè arabo con noi, potreste sentirvi uomini come noi. Voi che state lì sulla soglia della nostra casa, uscite dal nostro mattino. ci sentiremmo sicuri di essere uomini come voi. Troviamo il tempo di passare il tempo. Giochiamo a dadi, leggiamo le nostre notizie nei giornali dello ieri infranto, leggiamo l'oroscopo. Nell'anno 2002 sorride la videocamera ai nati sotto il segno dell'assedio. Ogni volta che viene ieri gli dico: il nostro incontro non è oggi, vattene e vieni domani. Mi disse uno scrittore di aforismi: se avessi conosciuto la fine fin dall'inizio, nulla mi sarebbe rimasto da fare nella lingua. Ogni morte, pur se attesa, è la prima morte. Come posso vedere una luna dormiente sotto ogni pietra? Vano pensare a cosa pensa chi è come me là, in cima alla collina, da 3.000 anni, in questo adesso passeggero. Il pensiero fa male e la memoria rifiorisce. Quando i caccia scompaiono, le colombe spiccano il volo bianche bianche a lavar la gota al cielo. Con ali libere riprendono lo splendore, il possesso dello spazio e del gioco. In alto, ancora più in alto, volano le colombe bianche bianche. Ah, se il cielo fosse vero, mi disse un uomo correndo tra due bombe. Bagliore, folgore, lampo, sono simili. Tra poco saprò se questa è vena o se gli amici veri sapranno che la poesia è passata e ha ucciso il poeta. A un critico: non interpretare il mio discorso col cucchiaino del tè o con trappole per uccelli. Nel sonno mi assedia il discorso che non dissi e mi scrive e mi lascia per cercare i resti del sogno. I cipressi dietro i soldati si innalzano minareti perché il cielo non crolli. Dietro la siepe di ferro soldati urinano al riparo di un carro armato. E la giornata da autunno conclude la passeggiata dorata in una strada vasta come una chiesa, dopo una messa domenicale. Un paese si prepara all'alba, no, senza discordia. Divideremo le terre dei martiri, lì uguali. Il prato steso per noi, per affratellarci. Noi la vita la amiamo domani. Quando il domani arriverà, noi la vita l'ameremo così, com'è, ordinaria, infida, grigia, colorata forse, senza resurrezione, senza al di là. E se gioia deve essere che sia leggera, a corpo e cuore, il fedele provato non patisce la gioia una seconda volta. A un assassino: se avessi visto in faccia la vittima e riflettuto, avresti ricordato tua madre nella camera a gas e buttato le ragioni del fucile. Avresti cambiato idea. Un'identità non la ritrovi così. A un altro assassino: se non l'avessi ammazzato nel grembo, ancora 30 giorni e tutto sarebbe diverso. L'occupazione potrebbe finire E il bambino, senza ricordo del tempo dell'assedio, crescerebbe forte. Da giovane studierebbe con una delle tue figlie la storia antica dell'Asia. Si innamorerebbero, farebbero una figlia. Sarebbe ebrea di nascita. E quindi cosa hai fatto? Tua figlia adesso è vedova? La figlia di tua figlia orfana? Che cosa hai fatto della tua famiglia Raminga? Come hai potuto colpire tre colombe con una pallottola sola? Non era questa rima necessaria, né per dosare il ritmo, né per risparmiare il dolore. Era di troppo, come mosche sul tavolo. La nebbia è oscurità, un'oscurità di denso biancore, l'arancia si sbuccia e si sbuccia la donna promettente. Soli, saremmo soli a bere il calice amaro se l'arcobaleno non venisse in visita. Offendiamo qualcuno? Facciamo danno a un paese se ci colpisce da lontano una volta solo lo spruzzo della gioia? L'assedio è attesa. Attesa su una scala inclinata dove più infuria l'uragano. Oltre l'orizzonte abbiamo fratelli. Fratelli buoni ci amano, ci guardano e piangono. Poi si dicono in segreto, se solo avessero dichiarato questo assedio qui, lasciano sospesa la frase, non lasciateci soli, non abbandonateci. Le tribù non ricorrono a Cosroe né a Cesare per ingordigia del califfato. Il potere è consultarsi sul vassoio di famiglia, ma attratte dal moderno scambiano con l'aereo i cammelli della carovana. Urlerò nella solitudine, non per svegliare i dormienti, ma perché il mio urlo svegli me dalla mia immaginazione prigioniera. Io sono l'ultimo dei poeti, preoccupati di quel che preoccupa i loro nemici. Forse la terra è troppo stretta per contenere uomini e dei. Qui, in noi si radunano storie rosse e nere, i peccati danno corpo al libro sacro, se non fosse per il miraggio. I passi dei profeti sulla sabbia sarebbero più forti e la strada verso Dio sarebbe più breve che l'eternità porti a termine le opere eterne. Invece io sussurrerò all'ombra. Se la storia di questo luogo fosse meno affollata, maggiori sarebbero le nostre lodi ai contorni dei pioppi bianchi. Le nostre perdite. Dai due agli 8 martiri ogni giorno, e 10 feriti, e 20 case, e 50 ulivi, oltre alla perdita strutturale che colpirà e poesia, e teatro, e tela, mai compiuti. Immagazziniamo le pene nelle giare, che i soldati non le vedano. Non festeggino l'assedio, le accantoniamo per altre stagioni, per ricordo, per qualche imprevisto cammin facendo. E quando la vita diventerà normale, come gli altri, saremo tristi per cose personali, sommerse da grandi titoli, e non siamo stati attenti all'emorragia delle piccole ferite in noi. Domani, Quando questo posto guarirà, sentiremo i sintomi collaterali. Nella strada illuminata dalla lanterna di un esilio, vedo una tenda in balia dei punti cardinali. Il sud resiste al vento, e l'est è un ovest che si è fatto asceta, e l'ovest è tregua di uccisi che coniano moneta di pace. Il nord, invece, il nord lontano, non è geografia, non è un punto cardinale, è consesso di dei. Le dice: aspettami sull'orlo dell'abisso. Dice: vieni, vieni. L'abisso sono io. Una donna ha detto alla nube: copri il mio amato. Ho le vesti grondanti del suo sangue. Se non sei pioggia, amore mio, sii albero, colmo di fertilità. Sii albero. Se non sei albero, amore mio, sii pietra, satura d'umidità. Sii pietra. Se non sei pietra, amore mio, sii luna nel sogno dell'amata. Sii luna. Così, al funerale del figlio, disse la donna al figlio. Alla notte, seppure proclami l'equità tutta per tutti, per i sognatori e per i carcerieri dei sogni, noi continuiamo ad avere una luna calante e sangue che non cambia il colore della tua camicia o notte. Diciamo a un padre per la morte del figlio: Dio abbia in gloria il martire. E poco dopo gli facciamo gli auguri per il nuovo bambino. Alla morte. Sappiamo da quale carro armato sei venuta. Sappiamo che cosa vuoi. Torna incompiuta. Chiedi perdono a soldati e superiori. E di loro: i due sposi mi videro guardare verso di loro, esitai, poi rimandai la sposa dai suoi, piangente. Dio mio, perché mi hai abbandonato, ancora bambino? Non mi hai messo alla prova? Disse la madre: non l'ho visto camminare nel suo sangue, non ho visto il rosso sui suoi piedi. Era appoggiato al muro, in mano un bicchiere di camomilla calda, e pensava al suo domani. Disse la madre: all'inizio non avevo capito. Dissero: si è sposato poc'anzi. Allora gioia e danza e canto fino all'ultimo respiro della notte, quando tutti andarono e rimasero le ceste dei lillà intorno a me, chiesi: dove sono gli sposi? Fu detto: lassù in cielo due angeli a completare i riti delle nozze. Allora gioia e danza e canto fino a che, rimasta immobile, quando finisce, amor mio, la luna di miele. Quest'assedio si prolungherà fino a quando, assediante e assediato, sentiranno che la noia è un attributo degli umani. Oh, voi che vegliate, non siete stanchi di spiare nel nostro sale la luce e l'incandescenza della rosa della nostra ferita? Non siete stanchi, voi che vegliate. Fermi qui, seduti qui, permanenti qui, eterni qui. Abbiamo un obiettivo soltanto: essere. Poi siamo discordi su tutto: la forma della bandiera nazionale, Bene faresti a scegliere, tu popolo mio vivo, un semplice asino come simbolo. Discordi sulle parole dell'inno nuovo, bene faresti a scegliere il canto di nozze dei colombi. Discordi sui doveri delle donne, bene faresti a scegliere una signora a capo dei servizi di sicurezza. Discordi sulle percentuali, sul pubblico e sul privato, discordi su tutto. Abbiamo un obiettivo solo, essere. Poi ogni individuo sceglie l'obiettivo suo. In profondità, il verbo incompiuto continuerà il lavoro delle mani oltre l'obiettivo. Mi disse sulla strada per il suo carcere: quando mi libererò saprò che l'encomio della patria, come l'invettiva contro la patria, è un mestiere come altri mestieri. Un paese si prepara all'alba. Sveglia il cavallo e sali, leggero, leggero, per precedere il tuo sogno, e siediti, se il cielo con te temporeggia, su una roccia a respirare. Come mi porto la mia libertà? Come mi porta? Dove abiterà dopo il contratto di matrimonio? E che cosa le dirò al mattino? Hai dormito come dovresti dormire al mio fianco? Hai sognato la terra del cielo? E hai oziato con te stessa? Ti sei alzata contenta dal tuo sonno? Vuoi bere con me il tè o il caffè e latte? Preferisci un frutto o i miei baci? Come faccio a rendere libera la mia libertà? Tu straniera, non sono il tuo straniero. Questo letto è il tuo letto. Sii libertina, libera, infinita, e spargi il mio corpo fiore per fiore con il tuo ansimare. Mia libertà, fammi abituare a te. Prendimi oltre ragione, come a diventare due in uno. Come la porto, come mi porta, come divento il suo padrone quando sono suo schiavo. Come rendere libera la mia libertà senza separarci. Un poco di questo azzurro assoluto infinito basterebbe ad alleviare il fardello di questo tempo e a spazzare via la melma di questo posto. Questo assedio si prolungherà finché non poteremo i nostri alberi con mani di medici e sacerdoti. Questo assedio, il mio assedio metaforico, si prolungherà finché non insegnerò a me stesso l'ascetismo della meditazione. Prima di me ha pianto una viola e dopo di me ha pianto una viola, e la terra guarda stupita il vano gioco del tempo. Che l'anima scenda e cammini con piedi di seta al mio fianco, mano nella mano. Due vecchi amici condividono il pane vecchio e un bicchiere di vino vecchio per attraversare questa strada insieme. Poi i nostri giorni seguiranno sentieri diversi. Io oltre la natura e lei sceglierà di sedersi su un'altra pietra. A un poeta: più si assenta da te l'assenza, più sei implicato nella solitudine degli dèi. Sii l'essenza smarrita del tuo soggetto, sii il soggetto della tua essenza, sii presente nell'assenza. Alla poesia: assedia il tuo assedio. Alla prosa: adduci le prove dal dizionario dei dotti a un reale distrutto dalle prove e spiega la tua polvere. Alla poesia e alla prosa: volate insieme, ali di rondine annunciano la primavera benedetta. Ho scritto 20 righe sull'amore e mi è sembrato che questo assedio si sia arretrato di 20 metri. Trova il tempo per il sarcasmo. Il mio telefono non squilla, neppure il campanello della porta squilla. Come fai ad essere sicura che io non fossi qui? Trova il tempo per la canzone. Aspettandoti, non posso aspettarti. Non posso leggere Dostoevskij, né ascoltare un Kultum o Maria Callas o altre. Aspettandoti, le lancette vanno a sinistra verso un tempo senza luogo. Aspettandoti, non ti ho aspettata. Ho aspettato l'eternità. Le dice, quale fiore ami? Dice lei, amo il garofano nero. Dice lui, dove mi porti se il garofano è nero? Dice, al nucleo di luce dentro di me. E dice, è più lontano, più lontano, più lontano. All'amore. Oh, amore! Oh, uccello dell'arcano, lasciamo perdere l'azzurro eterno e la febbre dell'assenza. Vieni nella mia cucina a preparare la cena insieme. Io cucinerò e tu verserai il vino e sceglierai le canzoni che vorrai tra quelle che ci ricordano. Il luogo è neutro e i sentimenti confusi. Se si dice che sei una specie di credici e se si dice che sei una specie di malattia, credici e guardati e strappa il velo che hai, ma adesso vicino a me mi sei familiare, gentile, spuccilaglio, e dopo cena sceglierai per me un vecchio film sentimentale. Così vediamo come i due protagonisti lì diventano due testimoni qui. Nel mattino che seguirà questo assedio, una ragazza andrà dal suo amore con camicia ricamata e pantaloni grigi, l'umore trasparente come le albicocche nel mese di aprile. Questo giorno è tutto per noi, tutto, amore mio. Non tardare ancora, ho paura che un corvo mi si posi sulla spalla. Rosicchia una mela. Nell'attesa della speranza, in attesa dell'amato che forse non arriverà. O io o lui. Così comincia la guerra. Ma finisce con un incontro imbarazzante. Io e lui. Io sono lei per sempre. Così comincia l'amore, ma quando finisce, finisce con un addio imbarazzante. Io e lei. Non ti amo e non ti odio, disse un prigioniero all'inquisitore. Il mio cuore è pieno di ciò che non ti riguarda. Il mio cuore è colmo dell'odore di salvia. Il mio cuore è innocente, luminoso, pieno. Non c'è tempo nel cuore per le prove. Ma sì, non ti amo. Chi sei tu perché io ti ami? Sei forse parte di me? Un appuntamento per il tè, una nota di flauto, una canzone perché io ti ami? Ma odio la prigionia e non ti odio. Così disse un prigioniero all'inquisitore, i miei sentimenti non ti riguardano. I miei sentimenti sono la mia notte privata, la mia notte che si muove tra i cuscini libera da metrica e rima. Quest'assedio si prolungherà fino a quando i signori dell'Olimpo non avranno corretto le bozze dell'eterna Iliade. Nascerà un bambino, qui, adesso, in via della morte, a luna. Un bambino giocherà con un aquilone a quattro colori, rosso, nero, bianco, verde. Poi entrerà in una stella uscita dal branco. Seduti lontano dal nostro destino come uccelli che fanno il nido negli anfratti delle statue o nelle cappe dei camini o nelle tende erette sulla strada del principe diretto alla caccia. A un guardiano. Ti insegnerò ad aspettare alla porta della mia morte rimandata. Rallenta, rallenta. Forse ti stancherai di me e da me leverai la tua ombra ed entrerai nella tua notte libero dal mio spettro. A un altro guardiano. Ti insegnerò ad aspettare alla porta di un caffè. Sentirai il battito del tuo cuore rallentare, accelerare. Potresti conoscere il brivido come me, rallenta. Forse fischietteresti come me un motivo migrante di pena andaluso, tondo persiano, e ti dolerebbe il gelsomino e te ne andresti. A un altro guardiano ancora. Ti insegnerò ad aspettare su una panchina di pietra. Forse scambieremmo i nostri nomi. Forse vedremmo una somiglianza improvvisa tra di noi. Tu hai una madre, io ho una genitrice. Abbiamo la stessa pioggia e abbiamo la stessa luna e la stessa breve assenza dalla mensa. Sulle mie macerie spunta verde l'ombra e il lupo sonnecchia sulla pelle della mia capra. Sogna come me, come l'angelo, che la vita è qui, non laggiù. Le leggende rifiutano di cambiare la trama, ma se colpite da guasto improvviso, le navi sarebbero approdate su rive disabitate e l'immaginario sarebbe colpito dal reale, ma non cambiano la trama. Ogni qualvolta trovano una realtà che non gli conviene, la modificano con un bulldozer, perché la verità è schiava del testo, bella, bianca, senza malignità. A uno pseudo orientalista. E sia pure quel che credi, adesso supponiamo che io sia stupido, stupido, stupido, non gioco a golf, non capisco la tecnologia, incapace di pilotare un aereo, e per questo che hai preso la mia vita per farne la tua? Se tu fossi altro, se io fossi altro, saremmo amici. E riconosceremmo di aver bisogno della stupidità. Forse che lo stupido, come l'ebreo del mercante di Venezia, non ha cuore e pane e occhi lacrimanti. Nell'assedio il tempo diventa spazio pietrificato nella sua eternità. Nell'assedio lo spazio diventa tempo in ritardo nel tempo. Il luogo è l'odore. Quando ricordo una terra, annuso il sangue dell'odore e mi coglie la nostalgia per la mia anima errante. Questa terra è bassa, alta o santa, fornicatrice. Non ci curiamo molto del senso degli aggettivi. Così può essere che la matrice del cielo, diventi geografia. Il martire mi assedia. Ogni volta che vivo un nuovo giorno mi chiede: dove eri? Rimetti nei dizionari tutti i discorsi che mi avevi regalato e sui dormienti alleggerisci il ronzio dell'eco. Il martire mi spiega: non ho cercato al di là dell'orizzonte le vergini dell'immortalità, perché amo la vita sulla terra tra pini e fichi, ma mi è stato impossibile raggiungerla. La cercai con l'ultima cosa che mi appartiene, il sangue nel corpo del lapislazzuli. Il martire mi insegna: non c'è bellezza al di fuori della mia libertà. Il martire mi avverte: non credere ai loro trilli di gioia. Credi a mio padre quando guarda la mia foto piangendo. Come hai potuto scambiare le nostre vite, figlio mio? Perché mi hai preceduto? C'ero io prima. C'ero prima io. Il martire mi assedia. Mi sono solo spostato con i miei mobili consunti. Ho posato una gazzella sul mio letto e una falce di luna sul mio dito per alleviare la mia pena. Il martire mi assedia: non seguire il mio funerale. Se da vivo non mi conoscevi, non voglio l'omaggio di nessuno. Quest'assedio proseguirà per convincerci a scegliere una schiavitù che non fa male, ma in piena libertà. Resistere significa accertarsi dell'integrità di cuore e testicoli e del tuo male con radici, il male della speranza. In quel che resta dell'alba cammino verso il mio involucro esterno, in quel che resta della notte ascolto il rumore dei passi rimbombare il mio interno. Se l'amore si ammala, lo curo con ginnastica e ironia e separando il cantore dalla canzone. L'assedio mi trasforma da cantore nella sesta corda del violino. Al lettore: non fidarti della poesia, figlia dell'assenza. Non è intuizione, non è pensiero, e percezione dell'abisso. La scrittura, un cucciolo che morde il nulla. La scrittura ferisce senza sangue. Per me sempre gli amici preparano una festa d'addio, un sepolcro comodo all'ombra delle querce, un epitaffio inciso nel marmo del tempo, e sempre al funerale li precedo. Chi è morto? Chi? La martire figlia della martire figlia del martire sorella del martire sorella della martire cognata della madre del martire nipote di nonno martire vicina di casa dello zio del martire eccetera eccetera eccetera. E niente avviene nel mondo civilizzato. I tempi della barbarie sono finiti e la vittima è senza nome, ordinaria. E la vittima è come la verità, relativa, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Silenzio. Silenzio. I soldati vogliono a quest'ora ascoltare le canzoni che avevano ascoltato i martiri e sono rimaste come l'odore del caffè nel loro sangue, fresche. Tregua, tregua, per collaudare le istruzioni d'uso. I caccia vanno bene come aratri. Gli dicemmo tregua, tregua, per mettere alla prova le intenzioni. Potrebbe filtrare un po' di pace nell'animo. Allora potremmo fare a gara nell'amare le nostre cose con mezzi poetici. Ci risposero: non sapete che la pace con se stessi apre le porte della nostra fortezza? Dicemmo: e allora? E poi? Le tazze del nostro caffè, gli uccelli, gli alberi verdi dall'ombra azzurra, il sole che scivola di muro in muro quale gazzella, l'acqua nelle nubi dalla forma infinita, in quel che ci resta di cielo e altre cose dai ricordi sospesi, rivelano che questo mattino potente splende e che noi siamo ospiti dell'eternità. Un paese si prepara all'alba. Tra poco dormono gli astri nel linguaggio della poesia. Tra poco salutiamo questa lunga strada e chiediamo da dove cominciare. Tra poco avvertiamo il nostro bel narciso di montagna a non essere sedotto dalla sua immagine. Non sei più utile alla poesia. Guarda piuttosto le signore che passano. Pace a chi con me rispetta l'ebbrezza della luce, la luce della farfalla nella notte di questo tunnel. Pace a chi con me divide il mio bicchiere nella densità di una notte che trabocca da due scranni. Pace al mio spettro. La pace è il discorso del viaggiatore in se stesso, al viaggiatore nell'altra parte. La pace è colomba di due estranei che si dividono il tubare sull'orlo dell'abisso. La pace è nostalgia di due nemici, ognuno per conto proprio, di sbadigliare sul marciapiede della noia. La pace è gemito di due amanti che si lavano con la luce della luna. La pace è scusa del forte a chi è più debole d'armi, più forte d'orizzonte. La pace è sconfitta delle spade di fronte alla bellezza naturale, dove la rugiada spezza il ferro. La pace è una giornata amichevole, gentile, leggera, di passo, non avversa a nessuno. La pace è treno che unisce i passeggeri al ritorno o nell'andare a spasso nei sobborghi dell'eternità. La pace è riconoscere pubblicamente la verità. Che cosa avete fatto dello spettro dell'ucciso? La pace è dedicarsi al giardino. Cosa pianteremo adesso? La pace è attenzione agli occhi di volpe seducenti d'istinto in donna impaurita. La pace è un ah che sorregge le alture della poesia nel cuore di chitarra sanguinante. La pace è elegia per un ragazzo dal cuore bucato dal neo di una donna, non da pallottola, non da bomba. La pace è canto di vita, qui, nella vita, su corda di spiga. Con l'attore Lino Musella per presentare la sua lettura di Stato d'assedio di Mahmoud Darwish. Ben trovato. Buongiorno, ciao, ciao. Di cosa si tratta? Si tratta di un testo poetico di Mahmoud Darwish che ho intercettato novembre del 2023 e che ho sentito di voler portare in giro. Si tratta di una lettura, è un testo poetico fatto soprattutto di brevi componimenti, di frammenti, che però insieme costituiscono un'opera unica, così come è scritto proprio e raccontato nella prefazione del traduttore e editore Wassim Damash. È un testo che in realtà è stato composto durante l'assedio di Ramallah del 2002 e quindi ci racconta una condizione di assedio non esattamente contemporanea, ma che mi sembra che insomma, attraverso la poesia tante volte si riescano a portare parole che esprimono quello che vediamo, che stiamo vivendo, e sono parole del più importante poeta palestinese arabo. E quindi da attore mi sono sentito di portare questa lettura attraverso anche una formula di quel poco che si riesce a fare a nostro modo, cioè raccogliendo dei fondi. Quindi è una lettura cui io chiedo un cachet per questa lettura, cachet che viene dato a delle associazioni che lavorano a Gaza in questo momento, soprattutto Gazzella Onlus, ma anche la comunità palestinese napoletana che attraverso l'associazione Life for Gaza ha organizzato i primi grandissimi concerti raccolta fondi per Gaza appunto in questi anni. E nell'occasione del Festival Clorofilla, che è appunto questo episodio anche divertente, nel senso che essendo un festival di cinema e venendo io da altre occasioni di presentazione di film in cui mi si chiedeva appunto di fare la lettura di stato d'assedio con il compenso, ero convinto che questo festival mi chiamasse anche per presentare un film. Quindi dopo la lettura io aspettavo di presentare un film, ma in realtà e questo è ancora più un merito di Simonetta Grechi, lei voleva proprio la lettura all'interno del suo festival, era interessata proprio a questo tipo di contributo. In quel caso invece è stato devoluto il cachet a Alziamo la Voce per Gaza, un'iniziativa che ha costruito Chiara Avesani, una giornalista, e questa iniziativa ha raccolto un bel po' di fondi da inviare ai giornalisti in questo momento presenti a Gaza. Quell'assedio di cui parla Darwish in confronto a questo non ha confronti rispetto a quello che è successo negli ultimi decenni in Palestina. Ecco, cosa ti ha impressionato di quel testo? Innanzitutto ci parla di una storia che ha altre radici e questo secondo me è importante riportarlo in luce. È importante trovare il modo di raccontare una condizione che permane da decenni e che è l'inizio poi di quello che stiamo vivendo adesso. E nelle parole di Darwish, attraverso il dolore, attraverso la prigionia di cui lui parla, c'è una sottilissima soglia di speranza, nel senso che comunque la poesia lascia, per quanto disperata, una possibilità di un futuro possibile dialogo. E come lui dice nell'ultima elegia, che è un'elegia che puoi comprendere solo avendo ascoltato o letto tutto il testo, è un'elegia sulla pace con cui si conclude stato d'assedio, che letta da sola è sicuramente fraintendibile e depotenziata, ma dopo tutto quel tunnel di dolore che lui ci racconta, quell'elegia acquista un senso e da lui si invoca la pace. Non è una parola di cui dobbiamo avere paura, ma che cos'è questa pace? I vari aforismi che lui crea in questa elegia. La pace è riconoscere pubblicamente la verità ed è questa secondo me l'unica possibilità per poter attivare un giorno, chissà fra quanto, un dialogo. Ecco, come immagini idealmente una soluzione di questo genocidio? Volendo essere proprio parecchio ideali, attraverso questo, attraverso un riconoscere pubblicamente la verità. Solo in questo caso ci si può sedere a un tavolo e dialogare, cioè riconoscere la verità significa riconoscere innanzitutto un genocidio, una pulizia etnica, un'occupazione feroce, un'occupazione che va avanti da decenni e nel momento in cui si riconoscono queste responsabilità è possibile probabilmente mettersi a parlare. Come vedi da artista il mondo artistico di fronte a questo genocidio? Come si sta muovendo? Quest'anno c'è stata una forte reazione, ecco, che forse ha vissuto una lunga, media, troppo lunga fase embrionale, ma che adesso non è potuta più stare a guardare. Io credo che questo è sicuramente un aspetto molto positivo. Da qui in poi non bisogna retrocedere, anzi, bisogna continuare in questo senso e come lo si può fare? Quindi continuare a unirsi sempre di più e non solo la nostra categoria, tutte le categorie. Poi si potrà arrivare, non so, a una forma radicale di sciopero. Stiamo parlando sempre di possibilità umane, ecco. Poi dopodiché, se tutto questo non cambia, secondo me ci sono, ahimè, due strade possibili. Una è l'annichilimento, no? La resa, uno stato di impotenza in cui tu accetti la tua impotenza, oppure non lo so che cosa c'è dopo questo, le armi. Che percorso stai facendo con questa lettura? Non è una lettura che propongo così in stagioni, si è un po' venuto a conoscenza di questa lettura e quindi mi viene richiesta, e quando mi viene richiesta ha sempre lo stesso format, quindi una lettura, tu hai ascoltato, molto semplice, cioè io non ho cercato interventi spettacolari, per me sono parole che vanno ascoltate e io come attore mi sento di poter prestare quello che è la mia tecnica per provare a attraversare questo testo. In altri casi lo propongo io nel momento in cui non ci sono sufficienti possibilità per sostenere magari dei lavori che io porto in giro, ma con tecnici musicisti che quindi hanno un budget più elevato e alcuni festival mi chiedono quelli e non hanno fondi sufficienti per prendere quei lavori, allora gli dico: se a voi va bene lo stesso, verrei con una cosa semplice in cui il cachet che va dai 1000 ai 1500 euro viene devoluto a delle associazioni. Per me chiedo appunto il viaggio e l'alloggio. C'è un'altra lettura che io porto in giro che però non è così integrale, l'ha fatto solo per pezzettini. A Renoir del 4 settembre, insomma, c'è una giornata sulla Palestina. In quel caso io porterò invece un quarto d'ora tratto da Maria di Gaza di Ibrahim Nasrallah. Sono componimenti poetici degli ultimissimi anni e momenti. E chiaramente senti questo distacco che dici tu, lo senti in quel caso. Ci sono dei riferimenti web? C'è la mia mail, linomusella80@gmail.com, rispondo io direttamente. La lettura di Stato d'assedio di Mahmoud Darwish. Un saluto e un ringraziamento all'attore Lino Musella. Alla prossima! Grazie, grazie, alla prossima. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Michele Di Stefano, co-direttore di Short Theater a Roma dal 5 al 14 settembre 2025, ben trovato. Ciao, ciao. Cos'è Short Theater? Short Theater è un festival multidisciplinare di arti performative, teatro, danza, musica e altro che ogni settembre a Roma costituisce un po' un appuntamento di rientro, per così dire. È un luogo dove la comunità artistica si ritrova per ricominciare la stagione e quest'anno è alla sua 20ª edizione. Quindi insomma è un festival che è sempre stato significativo sia per il pubblico che per la comunità artistica sul territorio e non solo. Ha una programmazione nazionale, internazionale di alto profilo e insomma è qualcosa che quando ci è stata offerta la codirezione artistica abbiamo assunto anche come una responsabilità importante. Come si caratterizza l'edizione 2025? È un festival caratterizzato da una visione plurale, sulla pluralità insistiamo molto a partire dalla direzione che quest'anno e per il prossimo triennio sarà condivisa da quattro persone, oltre a me ci sono Ilenia Caleo, Silvia Calderoni e Silvia Bottiroli, ma direi di più, è ancora più esteso, diciamo, la testa pensante di questo organismo, perché c'è una relazione orizzontale con il team di produzione che è sempre stato il cuore, la spina dorsale del festival. Quindi siamo veramente in una dimensione di immaginazione collettiva, la costruzione appunto di una visione che anche quando parte dal singolo è destinata a corrompersi, a moltiplicarsi, a trasformarsi in qualcosa che poi magari è anche distante, no, dalla visione personale. Quindi sono tutte scelte che possono anche essere autoriali o di pensiero, ma che vengono frullate in una sorta di grande turbina che va a una velocità molto intensa. In questo momento siamo proprio in una fase di intensità pre-festival. Quanti sono gli appuntamenti?

Cos'è Visionaria Fest? È una festa che tutti gli anni a settembre apre un po' la stagione politica. Per noi è sempre stata l'idea di costruire un momento di condivisione prima di tutto, che attraversi vari linguaggi, quindi che racconti la realtà. La parola visionaria è la capacità di saper vedere nel presente anche possibilità di futuro, di metterle insieme, non di essere semplicemente astratti, ma di cogliere degli elementi in previsione di cosa possiamo costruire in avanti, e quindi è un modo di attraversare la realtà e di immaginare una possibilità di trasformazione usando linguaggi molteplici, che può essere un dibattito, può essere una birra insieme, ma può essere anche uno spettacolo teatrale, un film, un concerto. Ma questo tu lo sai anche bene perché hai partecipato con noi alla costruzione anche delle prime edizioni. Presentiamo anche la villetta, di cosa si tratta? La villetta è un luogo storico della sinistra di Roma, si trova a Garbatella, è aperta sempre nel tempo, da casa del fascio assaltata dagli antifascisti nel 44, poi è diventata una delle sezioni più importanti del PC e poi si sono succedute le storie della sinistra popolare antifascista del quartiere ma anche di Roma. Adesso è una rete di associazioni ma anche un'ambizione di esserci nel territorio, quindi da un lato ci sono associazioni che possono essere il corso di canto a costi popolari, il bar gestito dalla cooperativa Giuda Parla, in cui ci sono dei ragazzi e delle ragazze autistiche. È un mix fra una spinta sociale, una spinta politica e la voglia di trasformare ma anche di contarci. Il programma di questa 8ª edizione cosa prevede? Prima di tutto ci tengo molto al titolo, perché il titolo è Disertiamo, rompere l'assedio della narrazione dominante, abitare un altro presente. Noi nelle edizioni precedenti già abbiamo parlato fortissimamente della guerra, cioè ci siamo resi conto che qualcosa stava diventando pervasivo nella nostra società, ma quest'anno quello che vogliamo dire è vogliamo disertare dalla narrazione e dalle parole di guerra, vogliamo comunque provare a dire la nostra e rompere l'assedio di una narrazione che coltiva la paura, coltiva l'odio verso l'altro e che appunto poi ci porta al decreto sicurezza, alla guerra permanente. Un'altra cosa importante è che noi parleremo sempre di Palestina, perché i nostri occhi sono stati sempre su Gaza, quindi il brindisi iniziale del 2 sarà dedicato a Sumon Flottiglia e avremo degli aggiornamenti. Poi avremo anche altre due iniziative dedicate alla Palestina. Il primo giorno è al centro il problema della città e della rendita nella città, gli spazi che vengono sempre più erosi e messi a sistema e a valore contro le reti, le relazioni e gli spazi pubblici, ne parleremo. E poi a seguire ci sarà invece un dibattito, combattere il disincanto, una coalizione popolare per saper cogliere, al di là della frammentazione quotidiana, anche delle piccole lotte, il senso di appartenenza che superi questa mancata connessione fra le persone, la frammentazione, quindi anche un po' ricostruire l'orizzonte della speranza e della partecipazione. La sera invece sarà con noi Rancore, il rapper, che insieme a Valentina Farinaccio, la scrittrice, faranno un dialogo in cui ci aiuteranno a capire come si può accendere la scintilla della partecipazione per un'attivazione sociale e politica. Quindi è anche un'occasione per riflettere sul processo creativo. La giornata di mercoledì invece è dedicata alla scuola e saranno prima le studentesse e gli studenti ad avere un loro momento assembleare che hanno costruito in completa autogestione, e poi a seguire alle 19 ci sarà invece la scuola di Valditara, Difendere e costruire democrazia e saperi, cioè anche un lavoro di produzione di una strategia che sappia contrastare quella che io penso non sia neanche una destrutturazione, sia proprio una decomposizione della scuola fatta dalla destra, da Valditara, attraverso un lavoro certosino sulla ricostruzione del senso della scuola pubblica, della democrazia e dell'autorità dentro la scuola. Ci sarà Left con un libretto che hanno prodotto che si chiama Lotta di classe, ci sarà Cattive ragazze che con noi già da alcune iniziative costruiscono dibattiti sull'autoritarismo nella scuola. La cena è dedicata a Leoncavallo, la sottoscrizione della cena andrà alla Lotta del Leoncavallo e ci aggiorneranno sul corteo del 6 settembre. La sera un concerto dedicato a Francesco Valdiserri, che è un ragazzo del nostro quartiere. La famiglia si è attivata dopo la sua morte sia per la prevenzione e la sicurezza stradale, ma anche per dei momenti che sappiano tenere viva la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze attraverso la musica, che era una grande passione di Francesco. e quindi il concerto è dedicato a lui con jazz trio con Cinzia Tedeschi e Lee Finn. Giovedì 4 settembre c'è la presentazione delle attività della cooperativa Giulia Parla alle 17, è una comunità costituita da ragazzi e ragazze autistiche che adesso è l'anima anche della villetta, loro gestiscono il nostro bar. Alle 18 parleremo poi di intelligenza artificiale, va alla guerra, dual use, competizione globale, il paradigma della Palestina, cioè come anche l'intelligenza artificiale si sta lavorando nella guerra. Non possiamo non parlare di catastrofe climatica, ma in un momento in cui l'Occidente è governato da uno dei più importanti negazionisti climatici, cioè l'America, con Trump, saranno parte del panel due esponenti, uno della rete Eco Digital, Nicola Magliocchini e Michele Giuli, Ultima Generazione. La sera invece, ormai un classico di Visionaria, c'è la stand-up comedy con C'è Figa, con Alessandra Flamini, Flad, Ilaria Giammini e Paola Giglia. Un momento per noi importante perché anche questo ci ha accompagnato negli ultimi anni, una possibilità di spettacolo connotata dal punto di vista femminile e femminista. Venerdì 5, ancora una volta Palestina. Quindi ci sarà un collegamento della Global Summa Sottiglia di cui noi siamo megafono, nello stesso tempo vogliamo anche parlare di quello che è possibile fare nel nostro piccolo, dalle istituzioni alle associazioni, con il panel Palestina ricercare le complicità italiane per praticare azione solidale, il ruolo delle amministrazioni locali. Dal caso Hashem Ecorotta all'accoglienza da Gaza, perché è una rete che si sta attivando per ristrutturare l'accordo Hashem Ecorotta che contribuisce a tagliare l'acqua in Cisgiordania alle comunità palestinesi e costruire corridoi di accoglienza, e la città metropolitana di Roma lo sta facendo per famiglie provenienti da Gaza. Proseguiamo venerdì 5 dalle 19 in poi con un panel intitolato proprio di testare l'ovvio, dialogo per una nuova stagione creativa di Roma, insieme a realtà culturali importanti della città, da Zalib a Dominio Pubblico, Hollywood Tutto sul Cinema a Quinta Zona. E la sera invece abbiamo un bellissimo spettacolo che parlerà di guerra, aperta l'intervento di Flavia Gallo del Teatro del Lido, di testare le parole, e a seguito questo bellissimo spettacolo in musica, immagini e parole, Sabbath Mother, omaggio a Kate Kollowitz, con Letizia Maulà col clarinetto ed Eliana Como la voce narrante. E per finire, sabato 6 settembre, giornata in collaborazione con Cara Garbatella e con Micromega, in cui Maria Iatosti, che come ogni anno ci regala un'iniziativa, presenta Servizio Democratica, Guerra Nuova e Totalitarismo, con l'autore e filosofo Emanuele Profumi. A seguire invece un incontro sulle città, sul potere delle città e la potenza ai cittadini e alle cittadine, municipalismo contro nazionalismo, in cui parteciperanno diversi sindaci. Quindi concerto jazz curato sempre dal Garbatella Jazz Festival con il quartetto GASP. Domenica alle 17 sarà con noi Sandro Bonvissuto, che insieme alla casa editrice Red for Blind ci parleranno di quando a migrare erano gli italiani, a partire da tre testi. Alle 18 abbiamo il circolo di cultura autobiografica Clara Sereni, che come ogni anno ci racconterà l'attività svolta e ci presenterà la sua pubblicazione. Quest'anno partiranno dai racconti di scuola. Alle 19 con noi il sindaco, che viene intervistato da Daniela Preziosi del Domani, quindi sarà un momento per fare un po' il punto su Roma. Stasera il concertone dei nostri amici The Pungitors ci farà ballare e concludere la festa. I riferimenti web per tutti i dettagli? C'è il nostro sito che è www.visionaria-urban-fest.it. Ci saranno banchetti, la libreria Tlon e piccoli eventi inseriti dentro la festa. Ogni realtà del quartiere, ma anche della città, nel tempo ha imparato a riconoscere questo spazio e magari ci chiede di poter mettere questo banchetto, di fare una piccola iniziativa, e ovviamente per noi questo è un onore. Ottava edizione di Visionaria Fest dal titolo Disertiamo a Roma, la Villetta Social Lab, dal 2 al 7 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento a Francesca della Villetta Social Lab. Alla prossima! A voi! Con Marco Beltrame, uno degli ospiti dell'ottava edizione di Là dal Fiume, festival dell'Associazione Culturale Teatro in Scatola, a Roma dal 24 agosto al 10 settembre 2025. Ben trovato. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Cos'è questa rassegna?

che hanno delle importanti connessioni con il Giubileo. Considera che iniziamo il 7 dal mausoleo di Cecilia Metelli Caetani, la famiglia Caetani appunto di Bonifacio VIII, quindi partiamo proprio dal primo Giubileo con Mattia Sbragia e con le note di Pasquale Mirra. Questo la domenica, mentre poi riprenderemo il fine settimana successivo, quindi 13, 14 e 15. Il 13 e il 14 saremo nella meravigliosa villa di Massenzio, appunto Villa Imperiale, nel quadriportico del mausoleo di Romolo, con Francesco Cafiso e il suo meraviglioso quartetto, e con un progetto molto bello con Esther Pantano, per poi finire in un luogo, per noi è una grande gioia perché è un luogo sconosciuto prevalentemente ai romani, che ci è stato segnalato dal presidente della Commissione Pontificia di Archeologia Sacra, Monsignor Jacobone, proprio perché appunto parliamo di Giubileo, e si tratta di una meravigliosa basilica semi-ipogea che è all'interno della catacomba di Domitilla, quindi è una cosa eccezionale, bellissima e, ripeto, sconosciuta. Il ruolo di questo festival è esattamente quello, cioè di far scoprire le meraviglie dell'Appia che in pochissimi, giuro, anche io non conoscevo. E qui saremo con Monsignor Jacobone, che ci farà una importante lezione con le note di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Com'è stata la scelta artistica? Quest'anno è prevalentemente di jazz, forse perché le note appunto accompagnavano bene, si addicevano particolarmente a questo evento, perché in qualche modo ognuno di loro ha molto a che fare con, sicuramente poi l'improvvisazione jazz, ma ha molto a che fare anche con questo aspetto mistico. Penso a Paolo, a Fresu, è eccezionale, e non solo lui. Mirra, ad esempio, all'inizio del percorso è quasi ipnotico nei suoi suoni, quindi è stata una scelta voluta e quindi ha più caratteristiche jazz quest'anno. Di solito abbiamo ampliato molto di più, siamo partiti, se ti ricordi, con Vinicio Carosella abbiamo inaugurato questo festival 4 anni fa, e poi c'è stata Noa, Noemi e tantissimi altri artisti di grandissima qualità, dal pop alla world music. Quest'anno il jazz prevale proprio per queste caratteristiche. Diamo i riferimenti web per il programma? www.romaunpluggedfestival, e poi ci sono ovviamente con lo stesso nome anche i canali social Instagram e Facebook. Per raggiungerci, quest'anno il festival, come tutti gli anni, ha ATAC Mobility Partner, e quest'anno c'è proprio ancora di più la volontà di farlo diventare un festival sostenibile, quindi raggiungibile con i mezzi, per cui verrà prolungato, e questo lo dice il nostro sito, abbiamo chiesto e ottenuto dal nostro partner il prolungamento degli orari del 660, la navetta che da Arco di Travertino arriva all'Appia, quindi è la navetta, proprio l'autobus dell'Appia, è prolungato negli orari notturni, che normalmente non lo è, e anche il parcheggio di scambio, quindi è possibile non solo prendere la metro e venire con l'autobus, ma anche lasciare la macchina, quindi parcheggiare al parcheggio di scambio di Arco di Travertino e venire da noi grazie al 660. La cosa importante di questo festival, che coniuga la musica e la valorizzazione dei siti archeologici, non poteva mancare quest'anno, essendo il tema quello dei percorsi, non potevano mancare le visite guidate ad ogni appuntamento. Oltre all'incontro si lega sempre una visita guidata o una passeggiata guidata, così come nelle due giornate che faremo alla Villa di Massenzio, e ci sarà una passeggiata guidata con la descrizione dell'intero spazio e della storia di questo spazio, che era il Pago Triopio, addirittura di Erode Attico, fino poi a Massenzio. Gli altri luoghi che visiteremo, sempre grazie a questa collaborazione con tutte le realtà del parco, parco archeologico, sovrintendenza capitolina, commissione pontificia di archeologia sacra, quindi Monsignore Cabone, che ci farà l'ultimo giorno una lezione su Appia Regina Peregrinorum, parlando proprio di pellegrinaggio e dell'importanza, oltre che di tutti i luoghi di culto, che poi erano le stesse catacombe, ci parlerà di questo aspetto importante dell'Appia. Questo accadrà lunedì. Nell'appuntamento della domenica avremo appunto Appia Regina Viarum, verranno ripercorsi con una passeggiata guidata fino a Cecilia Metella, partendo dalle catacombe di San Callisto, una passeggiata guidata che ci descriverà appunto tutti i siti che andremo ad incontrare. Alla fine un regalo fatto dalla banda municipale e quindi della polizia locale di Roma Capitale, 80 elementi che suoneranno per noi un concerto davanti a Cecilia Metella. Quindi questi sono tutti gli altri appuntamenti che compongono questo festival. Quarta edizione di Roma Unplugged Festival, al Parco Archeologico dell'Appia Antica dal 7 al 15 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento alla fondatrice ed organizzatrice Claudia Appetito. Alla prossima! Alla prossima, vi aspettiamo! L'agenda della settimana teatrale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Settembre poi verrà, ma senza sole. E iniziamo l'anno cantando con Peppino Gagliardi. No, non siamo rimbambiti, ma insomma vogliamo omaggiare questo mese di settembre, dove tutto ricomincia. È un po' l'inizio dell'anno a scuola, l'inizio dell'anno accademico, l'inizio dell'anno vero e proprio, insomma, per chi lavora, per chi fa tutto. Dopo l'estate è un po', diciamo, il primo giorno dell'anno, ma oggi è il secondo e quindi già stiamo un po' fuori e dobbiamo andare a vedere che tipo di teatro ci sarà in giro in questo periodo. E allora partiamo, ma partiamo un po' da lontano, a dire il vero, perché partirei da un festival che si chiama Civita Festival ed è già in corso, insomma ci siamo sentiti poi durante l'estate, ed è un festival ormai alla 37ª edizione a Civita Castellana, che vede, insomma, fino al 10 settembre gli ultimi appuntamenti, diretto da Fabio Galadini, e mi preme, insomma, ricordare che questa settimana andremo a vedere un paio di cose che ci potrebbero interessare, ovvero sia il 4 di settembre al Chiostro di San Francesco, Mariangela d'Abbraccio nella Camille Claudel, un assolo basato sul testo Camille di Dacia Maraini, con le musiche di Claude Debussy, mentre invece un altro appuntamento forse interessante di questa settimana è l'adattamento di Davide Sacco dal racconto di Ursula Le Guin, Quelli che si allontanano da Omelas, con in scena l'iconica Eva Robbins, che riflette sui paradossi del mondo e sull'indifferenza umana. Dunque, questo per quanto riguarda il Civita Festival a Civita Castellana, e noi continuiamo perché questa è la settimana in cui è partito anche il Festival Anomalie, alla 19ª edizione, il Festival Internazionale del Nuovo Circo Contemporaneo, e si tratta di portare la sperimentazione in periferia, precisamente a Largo Mengaroni e Torbella Monaca, dove ci saranno artiste e artisti durante questo periodo. Il festival è curato, la direzione artistica affidata a Chiara Crupi e Nicola Danesi De Luca di Tony Clifton Circus, insomma lo ricorderanno sicuramente alcuni più accorti tra di noi. Abbiamo già iniziato nel weekend precedente, ma si continua perché questo venerdì 5 settembre va in scena Melik, corde per tessere della compagnia If Circus italo-belga, la famiglia Carlucci di 3D Danè, prima nazionale, un clown classico decostruito, una commedia disfunzionale, poi insomma Supernova del collettivo Flan, Melting Pot, e poi il circo El Grito di Giacomo Costantini in co-creazione con Fuming 2, mentre sabato 6 settembre vedremo Viola Vertigo del gruppo Scorza, Spagliata di Gioia Santini, debutto della compagnia torinese Circo Madera, con 7 artisti in scena, con un lavoro ecopoetico costruito con materiali di riciclo, mentre invece domenica 7 settembre in programma c'è la clown meravigliosa Silvia Lagnado in Senza Denti, e infine la ruota cinese di Acrostat di Roberto Sblattero, o Sblattero, chissà, ce lo dirà mai lui un giorno, il peggio delle pagliacce del collettivo nazionale, appunto, Le Pagliacce, le donne clown di tutta Italia, unisce le donne clown di tutta Italia. E questo è quello che vedremo questa settimana, ma si andrà avanti anche nelle prossime, quindi attenzione, attenzione. Valle della Caffarella, ingresso da Largo Tacchi Venturi, per questo il Padiglione delle Meraviglie, che comincia oggi, andrà avanti fino al 21 di settembre, appunto all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica, che conosciamo appunto come Caffarella. Questa settimana andremo a vedere La Festa d'Ogni Santi di Marco Grossi con la compagnia Malalingua, insieme alla mostra che ci sarà contestualmente, una mostra laboratorio, la mensa di Francesco Di Antonio Catalano. Gli spettacoli sono a ingresso libero, non serve prenotare, però insomma mi preme ricordare che Tosca e Massimo Venturiello sono coloro che si occuperanno appunto della direzione artistica. La scena di Ogni Santi, la festa Ogni Santi, chiedo scusa, è uno spettacolo itinerante interattivo di Marco Grossi con vari attori e attrici che insomma cercheranno di organizzare questo itinerario, e parte però da una riflessione sul significato dei santi oggi, che non sono icone lontane ma uomini e donne che attraversano esperienze profonde e capaci di collegare l'umano e il divino. Questo 2-5 settembre per la Festa di Ogni Santi al Parco della Caffarella, il Padiglione delle Meraviglie. Andiamo un po' fuori in realtà, ci allarghiamo ancora un po' perché andiamo fino a Todi. Todi che sta un po' forse leggermente fuori mano, per vedere però una cosa un po' fuori formato, una nuova Antigone con il testo di Elvira Buonocore, curato da Elvira Buonocore, con Clara Galante. Antigone non muore, Clara Galante che insomma, l'interpreta, ne è anche regista, costumista e drammaturga, insomma molto del progetto si deve all'attrice, amica peraltro di questa trasmissione, e si ragiona su un'eroina sopravvissuta al mito, una rivoluzione che affonda le radici nella carne e nella terra. Cosa fa una Antigone rimasta viva? E questa è un po' una domanda, no? Antigone non muore, è un'indagine anche politica sulla possibilità di una fine altra e di un altro inizio, quindi partire dal mito per andare un po' fuori dal tempo, cercando di liberare il personaggio da quello che è poi la costrizione di ciò che è stato scritto per lei o lui. Quindi il 6 settembre Todi Festival, questo spettacolo piuttosto particolare, intrigante, che speriamo di vedere presto anche verso Roma. Si continua invece a Roma con le Fiabe Popolari Italiane, che tornano dal 4 al 21 settembre. Ci troviamo a Villa Carpegna, che qui l'evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Tra tradizione e innovazione, il Giardino delle Fiabe porta insomma le fiabe popolari di fronte al pubblico romano, e la rassegna, che è ideata e diretta da Annabella Calabrese e Daniele Esposito, e appunto è alla sesta edizione, farà insomma molti giorni di attività, 18 giorni, 20 appuntamenti, spettacoli itineranti, quindi invito ad andare a vedere per il programma completo il sito ilgiardinodellefiabe.info per avere un'idea un pochino più precisa di quali saranno le molte attività. E poi noi ci dedichiamo in chiusura a due appuntamenti direi piuttosto importanti. Il primo a cui dobbiamo necessariamente fare riferimento è l'edizione numero 20, quindi XX, di Short Theater, il Festival Internazionale di Creazione Contemporanea e Performing Arts, 35 compagnie da tutto il mondo, dal 5 al 14 settembre. I luoghi sono quelli del Mattatoio di Roma, il Teatro India, il Teatro Vittoria e il Palazzo dei Congressi. Andremo a vedere molte compagnie nazionali e internazionali. La direzione artistica quest'anno è affidata Silvia Bottiroli, Silvia Calderoni, Ilenia Caleo, Michele Di Stefano, quella generale di Roberta Zanardo, Matteo Angius, organizzato e ideato da Area 06. Short Theater, insomma, ogni anno apre un po' la stagione romana, e questa volta, insomma, avremo, come dicevo, 35 compagnie, 70 appuntamenti, e con provenienze di artiste e artisti appunto della performing arts, della creazione contemporanea, un po' da tutto il mondo. Vado così a memoria, come si leggeva nella scheda: da Cipro, le Filippine, Iran, Libano, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo e vari altri paesi, anche europei chiaramente. Quindi si tratta di uno sguardo sul mondo che attraverso Short Theater, insomma, arriva a Roma per farsi un po' vedere. Andrà avanti anche la prossima settimana. Io invito ad andare sul sito www.shorttheater.org o comunque sui canali social per vedere il programma completo. Davvero sono tantissimi gli appuntamenti, non si fa in tempo a ricordarli noi. E però l'ultima cosa a cui vorrei dedicare un po' di attenzione è un progetto che non è uno spettacolo di per sé, ma comincia il 4 di settembre fino al 14 dicembre, Radicante, la scuola biennale transmediale transfemminista in arte, performance, teatro, cinema, danza, scritture, musica, all'interno dell'Angelo Mai, il progetto di Blue Motion, mediazione di Giorgina P. E per questo primo quadrimestre andremo, insomma, a indagare un po' tutte queste cose, una scuola di formazione per le arti per sole donne, persone trans e non binarie all'interno dell'Angelo Mai. È una cosa molto nuova, particolare, anche delicata, che insomma ha bisogno di cura e attenzione questo progetto. Progetto biennale, peraltro, è gratuito, per immaginare nuovi spazi di formazione artistica contemporanea fondati sull'inclusione radicale, la pratica transfemminista e l'intreccio tra creazione, pensiero critico e giustizia sociale. Questo è quello che viene offerto, ma c'è tanto tanto altro, quindi invito anche ad andare sul sito bluemotiontheater.com per vedere un po' il programma completo di questa scuola. A tutti gli effetti è una scuola gratuita all'interno dell'Angelo Mai, e ci sono docenze di grande livello, la regista Céline Chammat, Porpora Marcasciano, Chiara Bersani, Silvia Calderoni, Michela Lucenti, Eleonora Danco e tante altre che insomma andranno a comporre il panorama di questo nuovo modo di fare creazione a partire insomma da principi contemporanei più solidi, più saldi, forse più giusti. Questo è quanto ci dovevamo dire per questa settimana di inizio anno, quindi buon anno a tutti, buon settembre, ci vediamo a teatro, ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.